durante i quali, come sappiamo, l'Altissimo ha guidato Israele in maniera straordinaria, concedendo segni della sua presenza tangibili, la nube di giorno, la corona di fuoco la notte, e anche attraverso i punti di riferimento. Nel deserto furono Mosè ed Aronne, al momento dell'ingresso nella terra promessa prese il loro posto il grande Giosuè. In quegli anni Israele appunto fu nutrito da Dio stesso, la manna, che cessò appunto appena gli israeliti cominciarono a mangiare i frutti della terra promessa. Ora, questa infamia, questo disonore, questa vergogna, questo obbrobrio furono vissuti da Israele in Egitto, ma anche qui Egitto etimologicamente in ebraico Mitzrayim significa letteralmente terra dell'angoscia. E quindi cosa sono questa infamia, questo disonore, questa vergogna, questo obbrobrio? Sono la rappresentazione viva ed esteriore di ciò che il peccato è e produce nell'anima. La terra dell'angoscia è la terra dove regna il male, ciò che tiene lontani da Dio. Il peccato, e lo vedremo anche adesso subito nelle altre due letture, resta l'unico vero problema, l'unico vero male dell'uomo, l'unica cosa da temere per se stessa e da fuggire ad evitare ad ogni costo. San Paolo afferma perentoriamente, seconda lettura, se uno è in Cristo è una creatura nuova, e poi aggiunge, anche questa frase è da vedere con attenzione, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Anche qui, purtroppo in italiano, alcune finezze del testo greco originale non sono rese. Vederle è un pochino forse difficile, ma è bellissimo. Allora, il tempo in cui sono coniugati i verbi, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Ora dovete sapere che noi in italiano abbiamo il passato prossimo e il passato remoto. Nelle altre lingue, specialmente nel greco, i tempi sono un pochino più articolati. C'è un tempo che si chiama l'aoristo, che è un'azione che è iniziata nel passato e lì è finita, è morta. E invece c'è un tempo, che è il perfetto, che indica un'azione che è cominciata nel passato, ma ancora sta producendo gli effetti nel presente. Vi faccio un esempio. Quando l'Arcangelo Gabriele saluta la Madonna dicendo, ieri era la festa dell'Annunziazione, ave piena di grazia, nel dire piena di grazia usa il perfetto, cioè tu sei stata piena di grazia fin da quando sei stata concepita e stai continuando ad esserlo anche ora, e certamente continuerai ad esserlo. Questo è il tempo perfetto. Se gli avesse detto, usando l'aoristo, tu sei stata concepita senza peccato, ma poi è finito tutto lì. Non so se riesco a rendere. Allora, le cose vecchie sono passate, aoristo, quindi è una vita che non mi appartiene più. Ne sono nate di nuove, cioè da quando ho incontrato il Signore abbiamo cominciato a cambiare registro, succedono tante cose nuove e belle, sono successe e stanno continuando ininterrottamente a succedere. Quindi chi è il cristiano? Il cristiano è una persona che ha seppellito, cioè quindi sono completamente morti definitivamente ciò che c'era prima di incontrare il Signore, cioè fuori di metafora il peccato. E da quando ha ricevuto la grazia del battesimo, a quei tempi come sapete si battezzavano gli adulti, conosce cose diverse, cose nuove, e procura di crescere ogni giorno sempre di più nella grazia ricevuta dal Signore. Quindi seppellendo completamente la condotta antica, c'è un prima e un dopo. Questo chiaramente vale anche per noi, evidentemente, no? C'è un prima rispetto a un incontro forte con il Signore e un dopo, una differenza notevole di vita, di comportamenti, di modi di pensare. Se noi non notiamo questa cosa, e guardate che oggi purtroppo non sono pochi i battezzati che molte volte inconsapevolmente, ma di fatto vivono come vivono i pagani, cioè esattamente come vive la maggioranza della gente oggi, tenendo conto però che il contesto sociale in cui viviamo oggi non è più un contesto cristianizzato, ma al contrario, è completamente cristianizzato. Ora, chi non si trova in questa situazione viene supplicato dall'Apostolo, dice, vi scongiuro, il termine vi supplico, vi imploro, lasciatevi riconciliare con Dio. Attenzione, anche qui il termine si trova al passivo, cioè apri le porte del cuore all'azione del Signore, che vuole liberarti, vuole tirarti fuori dalla terra dell'angoscia, vuole farti lasciare alle spalle l'infamia dell'Egitto, vuole toglierti dal cuore ogni vecchiume malefico e ogni sorta di condotta empia e peccaminosa. Uno sguardo rapido sul Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi accentua molto la dimensione del libero arbitrio dell'uomo, questo giovane che a un certo punto decide di andarsene e il padre non approva quello che fa, ma lo rispetta, gli dà la parte del suo patrimonio e lo lascia andare, pur sapendo che andandosene il figlio sarebbe andato a ritrovarsi, come di fatto è successo, in un mare di guai. Dio ha un sacro rispetto che riserva ai suoi figli e alla libera volontà di essi, non volendo mai che nulla avvenga per costrizione o con violenza. Attenzione, perché il fratello maggiore, per come si comporta quando torna il convertito, il birbante, mostra che non è che si è tanto affrancato da una brutta visione di Dio. Come lo vede il padre? Come un promulgatore di ordini. Io sono anni che sto qui a servirti. E il suo servizio è come un peso, quindi dice, ti sto servendo e tu non hai fatto niente di bello per me, e esigerebbe quindi di essere ricompensato. Ora, ci fa più bella figura il figlio scapestrato, che paradossalmente, pur essendo caduto nell'abisso della perdizione, però ha maturato una grandissima verità nell'abisso della sua desolazione. Stare nella casa del padre, tornare da lui, non è un onere, ma è un onore, è un grandissimo piacere, non è un sacrificio, è una realtà sommamente desiderabile, non deprecabile, è un privilegio, non una condizione di minorità, è una cosa meravigliosa, non penosa. Quello dice, io sono tanti anni che sto qua, mi sono stufato e tu mi hai fatto una festa, che brutta vita, insomma. Stava malamente nella casa del padre. Il cuore di questo Vangelo, e concludiamo, sta in quel passaggio: ritornò in sé, tornare in sé. Attenzione che qui bisogna andare un attimo a guardare le lingue ancora più antiche, l'ebraico e l'aramaico, perché l'ebraico e l'aramaico hanno un'espressione molto molto importante. L'ebraico dice, correggendo un pochino il greco, che dice venne a sé, venne alla sua anima. Ci fu un momento in cui venne alla sua anima, e meglio ancora l'aramaico, tornò alla sua anima. Bellissimo. Immaginate questa persona, no? Cosa ha fatto il figlio del prodigo? Si è andato a degradare in una vita di bagordi, di piaceri, si è abbrutito, viveva come un mezzo animaletto, tant'è vero che alla fine addirittura mangiava le ghiande dei porci, no? Che cosa aveva dimenticato? Aveva dimenticato che l'uomo non è semplicemente carne da soddisfare, perdonatemi il termine, l'uomo ha un'anima, che è la cosa più importante. A un certo punto cominciò a pensare di averla, tornò a considerarla, si è ricordato che l'uomo ha in sé la parte più autentica e profonda della propria personalità, che è quella scintilla creata direttamente da Dio. E non è solo un corpo da saziare di piaceri e di bagurdi. Quest'anima ce l'abbiamo tutti quanti, è un'anima, è una cosa da curare, da coltivare e soprattutto da riportare tra le braccia di colui che tanto la ama, perché l'ha creata bellissima, la nostra anima è una cosa meravigliosa e l'ha ricolmata di doni che tutti noi dobbiamo imparare a riconoscere, scoprire e adoperare. Perché il padre riveste il figlio con gli abiti regali? Cosa c'è dietro questa immagine? È proprio la coscienza che il padre vuole che il figlio riscopra. Noi siamo così agli occhi del Signore, perché la nostra anima è così, anche se l'abbiamo ricoperta di una montagna di fango. E quindi quando arriva un figlio rinsavito, Dio vuole che si renda conto della propria bellezza e dignità e inizi a muoversi al suo cospetto da figlio, consapevole di essere partecipe di tutti i beni del padre, e quindi non più una vita da ramingo, da debosciato, da degradato e asservita ai vizi turpi. Ora, la Quaresima serve fondamentalmente a questo: scoprire profondamente che non siamo solo un corpo con i suoi bisogni, ma un'anima con la sua bellezza e nobiltà. La gioia più grande per ciascuno di noi sarà quella di decidere di liberarci, se ce ne portiamo dietro, da ogni infamante vergogna, obbrobrio, disonore, e tutti cominciare a vivere o continuare a vivere meglio da quei piccoli principi, quali siamo, perché partecipi dei beni della casa del Padre, che tutti, solo che lo vogliamo, possiamo pienamente godere, perché questo Dio vuole per ciascuno di noi. Siano lodati Gesù e Maria.